Container. L'approfondimento settimanale su autotrasporto e mobilità di Massimo De Donato. Ogni anno alimenta un giro d'affari illegale che vale solo in Italia circa 720 milioni di euro. Il mercato nero dei pallet usati utilizzati per il trasporto delle merci è un fenomeno non troppo conosciuto, che però causa gravi danni economici, erariali e anche ambientali. Legambiente ne ha parlato nel rapporto Ecomafia 2016, da poco pubblicato. Anche se il valore del singolo bancale non è particolarmente elevato, il mercato dei pallet è enorme. In Italia ne circolano infatti circa 120 milioni di unità. Secondo le stime, circa il 30% della movimentazione dei pallet usati sarebbe gestita frodando l'erario, con il risultato di un mancato imponibile di circa 53 milioni di euro. Lo scorso marzo la Guardia di Finanza ha concluso l'indagine Piazza Pulita nella zona di Lodi, facendo uscire allo scoperto un giro di fatture false da oltre 15 milioni di euro. Quali le misure di contrasto da parte del mondo dell'autotrasporto? Salve a tutti da Massimo De Donato, benvenuti a questo nuovo appuntamento con Container, l'approfondimento settimanale di Radio 24 dedicato al mondo dei trasporti e della logistica. C'è un mercato nero milionario, assolutamente inaspettato, ed è quello legato ai pallet, ai bancali di legno che tutti voi vedete sicuramente ogni giorno all'interno del supermercato. Beh, dietro a quei semplicissimi pezzi di legno c'è un mercato che vale svariate centinaia di milioni di euro e che ovviamente va spesso ad alimentare anche un mercato nero illegale. Il mondo dell'autotrasporto denuncia da tempo questa problematica, adesso però arriva anche una ricerca di Legambiente che grazie al suo osservatorio Ambiente e Legalità ha fatto sì che questo fenomeno in qualche modo emergesse anche in maniera più forte. Ne parliamo in compagnia dei nostri ospiti, vi presento il primo, Antonio Pergolizzi, che è il coordinatore dell'osservatorio Ambiente e Legalità di Legambiente. Cosa stabilisce il vostro ultimo rapporto sulla legalità pubblicato proprio qualche giorno fa? Beh, è stata diciamo la prima occasione con la quale ci siamo confrontati con questa forma di illegalità, che è anche una forma di illegalità ambientale. Francamente è stato anche per noi stupefacente leggere i dati e le informazioni che ci hanno messo a disposizione anche le forze dell'ordine, in particolare la Guardia di Finanza, che racconta insomma di un mercato nero che vale decine di milioni di euro ogni anno. Passa attraverso diciamo le classiche modalità di commercio illegale, ma anche attraverso la contraffazione. Ma la cosa che ci ha più colpito è come dire, l'utilizzo delle solite società cartiere. Cosa sono le società cartiere? Sono delle società diciamo strumentali che vengono create ad hoc per fatturare, per emettere fatture e per quindi diciamo evitare poi di pagare l'IVA e quindi in qualche modo truffare l'erario. Sono delle società che servono, società strumentali che servono per far transitare illegalmente i bancali, alla stessa stregua di quanto accade nel campo dei rifiuti, per esempio. Quindi queste società, queste SRL, molto spesso diventano lo strumento di affari illeciti, anche nel caso dei bancali, quindi dei pallet usati. Certo, un problema che in realtà, come dicevamo prima, è stato denunciato, è denunciato da tempo dal mondo dell'autotrasporto, e c'è un'associazione di categoria che in particolare si è distinta in questa battaglia negli ultimi anni, è la FIAP. Ne parliamo oggi con il presidente della FIAP, Massimo Bagnoli. Da anni voi denunciate questo fenomeno, un fenomeno che sta alimentando sicuramente anche la criminalità organizzata. Assolutamente sì, noi lo denunciamo da anni e siamo anche riusciti, grazie all'aiuto dell'allora sottosegretario Mino Giachino, ad ottenere comunque una legge che è la 127 nel 2010, che regolamenta un pochettino questo scandalo, questa vergogna. In che modo questa legge interviene su questa problematica? Beh, intanto partendo dal togliere dalla responsabilità gli autotrasportatori, che prima erano addirittura obbligati a pagare i pallet che gli venivano sottratti, mentre in seconda battuta dando una regolamentazione, ossia Quelle botteghe che vediamo compro vendo pallet a ridosso di tutte le zone industriali, che sono fiorenti e ne nascono tutti i giorni, prima erano senza regole, oggi c'è una regola. La regola è che chi va a vendere i pallet deve consegnare i propri documenti e il proprio codice fiscale, denunciare questi pallet che vende, e quindi essere poi rintracciabile dalla Guardia di Finanza. In teoria, quando vanno a vendere questi pallet ne dovrebbero anche dimostrare la proprietà, altrimenti c'è l'appropriazione indebita, addirittura dovrebbe esserci l'arresto. E nel caso in cui non lo facciano, viene la grossa frode, la grossa truffa, perché noi riteniamo che pagando in nero questi pallet, magari a qualche autista infedele o a qualche cooperativa di facchinaggio che è addetta agli scarichi, magari nella grande distribuzione perché ne girano di più, ma anche da altre parti, servono soprattutto per lavare soldi. E se si guardano anche i numeri che noi condividiamo di Lega Ambiente, soprattutto nel numero dei pallet, in realtà non sono 720 milioni il mercato di cui stiamo parlando, ma di ben oltre 1 miliardo di soldi riciclati, che addirittura adesso li riciclano guadagnando qualcosa, mentre prima almeno spendevano qualcosa facendolo fare alle banche. Per Golizzi una denuncia molto forte, quella che arriva dell'Legambiente, arriva anche dalle associazioni dell'autotrasporto, e come dicevamo addirittura punta al rialzo rispetto alla cifra che ovviamente, essendo un mercato illegale, è solo stimata. Quindi cosa si potrebbe fare secondo voi, secondo Legambiente, per bloccare in qualche modo questo fenomeno? Ma intanto fare squadra, intanto fare rete e parlarne, di denunciare questo fenomeno. Diciamo, noi l'abbiamo conosciuto, abbiamo cercato di investigarlo, e già questo, diciamo, è un grande passo in avanti. Bisogna sicuramente fare di più sul monitoraggio, sul controllo. La Guardia di Finanza ovviamente non può fare tutto da solo, occorre anche una presa di responsabilità, diciamo, di tutti i soggetti che a vario titolo movimentano i pallet, perché abbiamo visto, insomma, che il mercato nero è un mercato molto molto molto fiorente. Poi, visto la quantità che transitano, insomma, c'è poco da stare sereni. Quindi occorrono sicuramente interventi, come già ci sono stati, normativi, ma occorre sicuramente un maggior controllo, un monitoraggio, soprattutto da parte, diciamo, dell'associazione di categoria, di tutti coloro che in qualche modo prendono parte a questo sistema. Quindi il sistema di tracciabilità attraverso i marchi registrati EPAL, proprio quale obiettivo di assicurare la trasparenza, la tracciabilità e garantire che il legno provenga da una filiera certificata, una filiera legale. E nel momento in cui tutto questo si muove nell'illegalità, perdiamo ogni forma di garanzia, non sappiamo di che legno stiamo parlando, anche perché parliamo di pallet che vengono contraffatti, cioè i marchi vengono contraffatti, questo è ancora più agghiacciante. Certo, sul discorso di fare squadra mi piace pensare che anche questa trasmissione possa aver messo in contatto un po' un mondo, quello di Legambiente, con il mondo dell'autotrasporto, che per una volta si trovano a dover combattere una battaglia, come dire, comune. Su questo tema della contraffazione dei pallet e più in generale dei marchi, che cosa succede, Bagnoli? Lo vediamo meno evidente come problema, anche perché comunque un pallet usato, un pallet nuovo, c'è sì una differenza importante, costa la metà, ma sono risorse sprecate in quello di contraffare il pallet. Quello che vediamo invece è proprio il lavaggio dei soldi. E ritorno un attimo a quello che ha detto il rappresentante di Legambiente Pergolizzi, per dire che non tutto deve fare la Guardia di Finanza. Noi abbiamo denunciato questa cosa all'ANCI perché i commercianti di pallet usati sono assoggettati ai venditori di mobili usati, quindi c'è un testo unico molto antico, e quindi il controllo dovrebbe essere fatto dai comuni. Noi siamo andati all'ANCI per far capire che hanno un tesoretto sotto casa, che magari quando gli vengono tagliate delle risorse dallo Stato centrale possono andarsene a procurare in proprio sotto casa. Beh, quindi questo è un invito interessante, anche perché potrebbe contribuire pesantemente, in modo importante, al ripristino della legalità in un settore dove ovviamente ed evidentemente ce n'è poca. Bene, termina qui anche questa puntata di Container. Prima di lasciarci vi ricordo che questa è una produzione realizzata in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Comitato Centrale dell'Albo degli Autotrasportatori. E vi ricordo anche il nostro indirizzo email, che è